niente. Ho sentito gridare e son venuto dalla parte più debole in aiuto. Uditemi, fattore. Uditemi. Questa è la mia ragione. Ragione? No, per la parte sua non c'è ragione. Ho promesso a Mincone Dorina cameriera, a lui può darla. Vorrebbe maritarla l'adorabile mio signor consorte con Titta il suo staffiere, per mirarla vicina con suo piacere. E la cosa è così? No, non è vero. Può darla al mio staffiero, perché meglio con lui starà Dorina. Appena poverina sposandosi a Mincone, prenderebbe il marito un bel dirpone. Se la cosa è così, non è per questo, ma perché innamorato pensa a render lo stato della donzella mia ricco e felice. Se la cosa è così, mente chi lo dice? Una mentita a me. La guerra è accesa. Una mentita a me. Non so chi sono se non so ben di parlare. Me ne parla, signora. Allarmi, allarmi. Che Dorina sposerà Mincone, oddio ve lo prometto, dividerò signor consorte Elena. Eh no, signora. Che si sposi a Titta, o dividasi il letto e il matrimonio. Questa volta davvero entrò il demonio. Son marito alla fine e son padrone. Il tollerar non voglio in casa mia, si funesto orgoglio. Yeah. Che conviene cedere a lui, vorrete dire, è vero? Dirò, signora mia, vi manca poco che io non so che con voi venire il fuoco. Ma io sì, palmo. E perché tanto palmo? Darmi torto così sugli occhi miei. Ma no, signora, io do ragione a lei. Dunque ho ragione? Certo, signora, sì. Che vedo, è meglio dir così. Ma il marito, dicevi, è affin marito e conviene. Che conviene? Io dir volea, quando la moglie dama, il marito deve fare quel che la brama. E voi, per compiacervi, dovete fare in modo che conchiude sempre un simil nodo. Io non c'ho molta grazia, onde davvero so. Voglio che lo facciate. Io lo farò. Alfine, io son chi sono. Sono dei miei natali. Le parentele mie non sono ignote. E si sa che una dote portata in questa casa, signorine, è quel che io voglio, ed è questa giustizia, non orgoglio. Anzi, è cosa giustissima, e vedrà che in effetto tutti le porterà maggior rispetto. Man muss den Frauen schmeicheln. Per una serva il marito di me fa poca stima. Ma dove andò? Thank you. necessaria che io pensi a maritarmi. si è accesa la gran lite tra i padroni per voi bei soggettoni, onde deciderà presto la sorte a che debba Dorina esser consorte. Dite la verità, Dorina cara, sareste più contenta maritandovi a me? Non so. Parlate, il vostro cuor spiegate, vi piace il volto mio? Signor sì. E mi volete bene? Così, così. O della terra al sole, o della bestia ancora al mio comando, e poi per lavorare quando bisogna non accenno a nessuno. Me ne consolo. O casa e bottega servo per il mio diletto, ma fra denari e roba tengo un buon capitale. Me ne rallegro. Voi decider potete, basta che voi volete. Sì, vedrò. Mi esibisco di cor. Per volontà. Sentite una parola. Sie sollten nicht trauen, während sie seine Frau zieht sie verloren. Denn ist ein Betrüger erster Klasse. Davvero? Chi? Favorisca! Le ho da dire una cosa. Ich muss sie bringen, meine Frau der Hochzeit mit Mingone. Ist der Abschaum aller Gauner. Oh, Capri! Chi ha cotto il parlare nell'orecchio? Ella deve dirle chiaramente forte di che brava esser consorte. Lo dica pur, già so ch'io son l'eletto. Preferire da lei, senti e mi aspetto. Tutti e due meritate, ma tutti e due mi fate un poco di timore. Ah, sceglierei, sì, vi vedessi il cane. Thank you. vuoi dir quello che vuoi? Per te è finita. Sciocco! Tu ti potrai legar le dita. E poi la protezione del mio signor padrone. Bastami il mio favore. Questa volta non basta il protettore. La padrona lo sa che tanta carità per te non usa. Sa che questa è una scusa sol per aver vicina non indipende sua sposa Dorina. Si inganna se lo credere. Quando sarò sposato, addio, signor padrone bello e garbato. Ma sarà mia Dorina. La padrona l'ha detto e lo farà. E anche il marito rivolterà. Chissà, quando il padrone abbia condizione che dicessi tu, date forse potria sperare di più. Basta che ciò non sia. Mi vuol bene Dorina e sarà mia. Misero! Che m'aspetti vederti svergognato. Dirmi, buon bro ti faccia. Ed io allora potrò riderti in faccia. Mir Schrecken ein. Ein Teutone, der Mingone. Da ist Livietta. Und wenn eines Tages Dorina mit den Lauf passieren würde, wäre Livietta zu nehmen auch keine Bürde. Il padrone vi chiama. Ora vado, carina! Animo, andate! Perché cos'è sti zosa? Sono in collera come la padrona mia! E se mi sono tra lei e voglio andar via! Perché? Cosa l'ha fatto? vuole fare una giustizia, ma non la soffrirò, e no, certamente. Vuol trasfasso a Dorino, e dove niente. Ebbene, non dubitate, l'avrete ancor voi. Ne potrete pigliar uno per una. Io non voglio gli avanzi di nessuno. E poi per maritarmi, non vuo che tra i padroni si contrasti e mi pare di aver merito. Che fasti? Ditemi, Livietta, caso mai che Torrina si sposasse a Mingone, cosa potrei sperar dal vostro amore? E vi mandassi al diavolo di core. Ma perché? Torno a dirvi, caro mio babbuino, che io non voglio servire da comodino. Dunque, per quel che io sento, son bello e licenziato. Che volete da me? Siete impegnato. Se voi a dissimegnarmi, promettete d'amarmi? Non lo so, siate libero e poi risponderò. Brava, così mi piace, ammir la prudenza. Or vado di presenza dal padron, da Dorina e il suo venio. Basta, basta, chissà, Livietta, addio. Carina, siete pur bellina, siete pur bellina. Non so partire, non so partire. Tutto vorrei pur dire, eccomi. Vado intorno. Resonerà quel giorno che il mio segreto amor. Lustrissimo, la servo, cano, mi lascio, la servo, lustrissimo, vengo, cara, la servo, presto verrà bel giorno, il mio segreto amor. Lustrissimo, la servo, caro, mi lascio il cuore, finito. Vi lascio il cuore, vi lascio il cuore. giuro, amore, fe, se io come si suole dir, tutto per me. Addio, Dorina bella! Vi sbagliate, signor, non sarò quella! Non siete voi Dorina? L'occhio non mi inganna! Son Dorina, gli è bella, ma bella no! Del la vostra modestia, l'abile virtù, va cresce adesso una beltà di più. Voi mi mortificate! E voi mi innamorate! E voi, Dorina mia, voi mi fareste far qualche pazzia! Signore, io non capisco! Dite un poco, è vero che in questo dì vi voglio maritare? Signor, sì! È vero che al giardiniero o al servitor vi voglio andare? È vero! Se un partito miglior vi proporrò, l'accetterete voi? Perché no? Per esempio, se io che al fin sono un fattore, mi esibissi per voi. Oh, mio signor! Schietto, conviene parlare, Dorina mia! Io non ho dote per vostra signoria! Di dote non mi importa, sono anni che servo da fattore, ed un fattore che ha un po' di condizione, presto diviene più ricco del padrone! Ditemi se vi piace, Dorina, il mio partito. Dite se mi volete per marito. Direi, signor... Franco parlar bisogna. Ho un pochino di vergogna. Siamo fra voi e me. Nessun ci sente. Basta, se la padrona si contenta che io... Di farla contentare, l'impegno è mio. Non lo dite a nessuno, io non lo dico. Lasciatemi l'intrigo e fra due pretendenti al vostro cuore quel che trionferà. Sarà il fattore. Ma non vorrei. Convien star zitti e condur bene la macchina presente, far le cose tra noi senza dir niente. Ma sentite in ingole, mi vedono con voi, cosa diranno? Che parli crederanno per loro. E la padrona ed il padrone, entrambi me l'han detto, impegnato mi credo ognun per sé. Ma io voglio operare solo per me. Basta, non so che dir. Cara, è un peccato che un boccon prelibato come il vostro vada in mano d'un mostro, d'una sciocca, d'un vil, d'un servitore. È un boccon veramente da fattore. Mi vorrete poi bene. Tanto e poi tanto. Siete pure gentili. Siete un impatto. Mi dà la padrona, mandato son qui, per dirvi che quella, per dirvi che a lei parlate per me, parlate per me, parlate per me. Sicaria, aspettate, sicaria, aspettate, parlarvi lasciate, sapete com'è, sapete com'è. C'è qualche novità, c'è qualche novità. La novità è questa, che voi sarete mia, che voi sarete mia. Sarà la cosa presto, stasera si farà. Sarà la cosa presto, stasera si farà. E spricht in meiner Sache, ihr arbeitet für mich. Für mich. Für mich, für mich, für mich, für mich. Guardate, il sento buone, una cacatone. Für mich ergreife, gewiss fatal. Für mich ergreife, gewiss fatal. Guardate, il sento buone. Questo balcone nuovo. Oh, sono io re, sono io. Siete il mio dolce amor. Siete il mio dolce amor. Ich werde sie bekommen, ich werde sie bekommen. Ich bin schon ganz verzückt. Meine Ziele ist glückt. Meine Ziele ist glückt. Ho parlato. E ben ho parlato. Che dite? Qualche dun sarà felice, ma chi sia non voglio dir. Sarò io quello. Ma chi sia, non voglio dir. Sarò io quello. Il mio caro è bello, già morto e morrà. Oh, che gioia, che contento, sarà. Sarò io,